Mezzogiorno di Simone Spezia. Cresce l'occupazione nel secondo trimestre dell'anno, più 189.000 posti, ma restano a casa oltre 6 giovani madri su 10. Il governo oggi incontra i sindacati sulle pensioni. Il comune di Amatrice fa causa a Charlie Hebdo per la vignetta sul terremoto, un vilipendio alle vittime secondo l'amministrazione. Aperture di Renzi a modifiche della legge elettorale, ma la sinistra PD non si fida. Giunta Raggi alla ricerca di un assessore al bilancio. Partono questa settimana alle scuole in tutte le regioni italiane. 8 milioni di ragazzi tornano sui banchi. C'è polemica sull'applicazione della riforma e sulle carenze di insegnanti in molti istituti scolastici. Il malore di Hillary Clinton è polmonite, dice lo staff. Ombre sulla condizione di salute che potrebbero pesare sul voto di novembre. Calcio, la terza giornata di campionato. Sotto la pioggia e nel segno di Totti. Ancora Juve, Napoli e Roma in testa alla classifica. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Buon inizio di settimana, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, se ci volete scrivere 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque i dati Istat sull'occupazione. Festeggia Matteo Renzi su Twitter. Dall'inizio del nostro governo 585.000 posti di lavoro in più. Il Jobs Act funziona, scrive il Premier dopo la pubblicazione dei dati Istat. Nel periodo aprile-giugno gli occupati sono saliti di 189.000 unità rispetto al trimestre precedente, più 0,8%, mentre la crescita in un anno è stata di 439.000. Circa la metà sono under 35. L'incremento riguarda i dipendenti, soprattutto con contratto a termine, ma anche a tempo indeterminato, e a registrare la performance migliore è il Mezzogiorno. I disoccupati calano per il quarto trimestre consecutivo, ma restano a un soffio da quota 3 milioni, con un tasso di disoccupazione giovanile al 35,5% dal 40,3% dei tre mesi precedenti. Diminuiscono i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, 252.000 in meno in un anno, ma sono soprattutto le giovani neomamme a rimanere a casa, oltre 6 su 10. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il governo torna ad incontrare i sindacati per parlare di pensioni. Riguarderà tutti i lavoratori, sia gli autonomi sia i dipendenti, quindi anche partite IVA e statali, l'anticipo pensionistico allo studio del governo, che su base volontaria permetterà di uscire dal mondo del lavoro fino a 3 anni e 7 mesi prima del dovuto. Il cosiddetto APE sarà gratuito per i disoccupati e i lavoratori in condizioni disagiate. Chi percepisce una pensione di 1.000 euro e lo chiederà per un anno avrà invece l'assegno decurtato per 20 anni di una cifra compresa fra i 50 e 60 euro al mese. Ad anticiparlo è il sottosegretario Nannicini, che oggi torna ad incontrare i sindacati. Nel dibattito sulle pensioni intanto ad intervenire è anche il presidente dell'INPS. Boeri ribadisce che il problema del nostro sistema previdenziale non è la sostenibilità ma l'equità, e per questo torna all'attacco delle pensioni d'oro, che non hanno un legame con i contributi versati, e contro i vitalizi ingiustificati come quelli dei politici. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è un altro tema che resta in primo piano a livello politico in vista del referendum costituzionale, della sentenza della Consulta sulla legge elettorale, proprio l'ipotesi di modifiche all'Italicum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, disponibile a cambiare l'Italicum, ma Matteo Renzi però potrebbe arrivare troppo tardi. Il 4 ottobre infatti i giudici della Corte Costituzionale si riuniranno per decidere l'incostituzionalità della legge elettorale, la possibile bocciatura almeno parziale dell'Italicum, contestato da ricorsi presentati da alcuni tribunali. Nel mirino il premio di maggioranza, il divieto di apparentamento, ovvero di alleanze tra i partiti al ballottaggio, e le cosiddette candidature plurime. Ma intanto prosegue lo scontro all'interno del PD, disposto a modifiche. Il premier Matteo Renzi non convince la minoranza interna. Roberto Speranza e Luigi Gotor sono delusi dalle parole del premier e voteranno no al referendum. Ma anche l'ex segretario Pierluigi Bersani dice che Renzi a Catania ha cantato la solita canzone. Ieri l'attacco di Renzi a Massimo D'Alema, che ha aperto i comitati del no. Alcuni leader del passato vorrebbero fregarci il futuro, ha detto il premier, un attacco che evidentemente non è piaciuto alla minoranza Dem. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Altro fronte politico, quello della giunta romana. Dopo la contrarietà espressa da Monsignor Galantino e dal Cardinale Parolin per aver disertato l'incontro di sabato con la CEI per impegni personali, il Vaticano fa retromarcia, nega le frizioni e aggiusta il tiro su Virginia Raggi. Nessun giudizio sull'operato della Giunta, dichiara Monsignor Becciu. I problemi non dipendono dall'attuale amministrazione, ma certamente devono trovare al più presto una soluzione. La sindaca tira dunque un sospiro di sollievo dopo l'attacco dell'Osservatore Romano che sabato scriveva «La capitale in stato di abbandono», diventato poi il titolo di apertura di gran parte dei quotidiani italiani. Anche il premier Matteo Renzi, dalla festa dell'Unità di Catania, ha chiesto al PD di non attaccare la Raggi. «Rispettiamo il voto dei cittadini di Roma», ha detto Renzi. E sulla chiacchierata questione della scorta è poi arrivato il sostegno del presidente del PD Matteo Orfini, che definisce imbecilli le polemiche a riguardo. «Nessuno decide di avere la scorta», ha detto, «ti viene assegnata perché c'è un rischio per la tua persona». La misura è infatti stata decisa nei giorni scorsi dalla questura dopo le denunce sui continui appostamenti sotto casa. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il comune di Amatrice fa causa a Charlie Hebdo. Era il 31 agosto, pochi giorni dopo il sisma che colpì il centro Italia. La vignetta satirica pubblicata dal francese Charlie Hebdo e dedicata al terremoto italiano in poche ore suscitò polemiche e proteste. In molti, soprattutto sul web, si affrettarono a definirla di cattivo gusto ed irrispettosa nei confronti di quasi 300 vittime. Ora il comune di Amatrice, il più colpito dal terremoto, ha deciso di agire legalmente. Questa mattina è stata depositata presso la procura del Tribunale di Rieti una denuncia querela per diffamazione aggravata. Per l'avvocato del comune, il periodico aveva raffigurato le vittime del sisma in modo tale da somigliare a degli stereotipati piatti della tradizione culinaria italiana, mentre una seconda vignetta aveva attribuito la colpa della devastazione del centro Italia alla mafia. Si tratta di un macabro, insensato ed inconcepibile vilipendio delle vittime di un evento naturale, spiega l'avvocato Mario Cicchetti, secondo il quale non tutto può essere satira. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È il primo giorno di scuola, o almeno sarà il primo giorno di scuola nell'arco di questa settimana praticamente per tutte le regioni italiane, lo sarà anche nelle zone colpite dal sisma. Maria Piera Ceci, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, domani tutti a scuola, primo segno della rinascita di una comunità, ha raccontato questa mattina a Cuore Denari la nuova preside della scuola di Amatrice, Maria Rita Pitoni, crollata il 24 agosto. Allora, ecco dove andranno a scuola i ragazzi, nella voce della preside. Allora, abbiamo tutta una struttura, una serie di moduli dall'infanzia fino alla scuola media. Poi c'è davanti, diciamo, i moduli del liceo scientifico. Poi questo campus sarà completato da una palestra, da un campo di calcio e anche dalla mensa. Per il resto d'Italia invece i problemi sono un po' quelli di sempre, a cominciare dalle cattedre scoperte. Piovono nelle scuole certificati medici e richieste di congedi parentali. In molti casi si tratta di quegli insegnanti che l'algoritmo ha assegnato lontano da casa, spesso dunque insegnanti che dal sud devono trasferirsi al nord. Non ci sarà la pioggia di ricorsi, assicurato a Radio 24 il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Migliaia di assunzioni, qualche errore ci può stare. Quindi su tutti questi errori noi faremo le conciliazioni. E laddove non si riuscirà a trovare, diciamo, una conciliazione tra la scuola e l'insegnante, ci sarà chi farà ricorsi. Ma stiamo parlando veramente di un numero fisiologico che può esserci quando si fanno operazioni così grandi. Per il resto tutto sta funzionando benissimo. Così dunque Faraone, grazie alla nostra Maria Piera Ceci per questo aggiornamento. Vi ricordo che Radio 24, così come ha fatto da questa mattina, continuerà nell'arco della giornata ad occuparsi appunto di scuola e di questa apertura delle scuole che sarà in tutte le regioni nel corso di questa settimana. Molti approfondimenti tra l'altro li troverete anche sul nostro sito www.radio24.it. Tra l'altro in effetto giorno più avanti torneremo su questi temi, c'è una storia che ci ha colpito dei giorni scorsi, una storia anche esemplare per certi aspetti, di un ragazzino disabile rimbalzato per così dire da una scuola all'altra perché non c'è l'insegnante di sostegno. Non è il solo caso e lo sappiamo, abbiamo preso questa storia come storia esemplare, succede a Milano e ne parleremo con quello che oggi si chiama direttore dell'ufficio scolastico provinciale e che un tempo era il provveditore. Siamo all'estero, il malore di Hillary Clinton. Improvvisamente ieri la politica, che doveva restare fuori dalle celebrazioni per il 15° anniversario dell'attacco dell'11 settembre 2001, ha fatto di nuovo un ingresso dirompente sulle cronache, dirottando l'attenzione dei media. Hillary Clinton alla polmonite. Cosa seria, più seria del malore per un colpo di caldo di cui si era avuta notizia ieri in tarda mattinata, tanto più che il 26 settembre ci sarà il primo dibattito elettorale diretto fra Donald Trump e Hillary Clinton e la convalescenza può durare alcune settimane. Trump ha rispettato l'impegno, per ora non ha detto nulla, per ora, perché proprio lui aveva scatenato una polemica contro la Clinton accusandola di nascondere la gravità del suo stato di salute. Ricordiamo, Hillary nel 2012 era caduta, aveva battuto la testa, le rimase un embolo. Mistero, dunque, forse sì, forse questa volta Trump ha ragione e questa campagna si avvolge di nuovo nel mistero di un nuovo giallo. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Ovviamente Mario Platero lo ritroveremo più avanti in America 24. Restiamo all'estero. La vicenda infinita del ballottaggio per le presidenziali austriache si arricchisce di un altro capitolo. Ballottaggio rinviato per le presidenziali austriache in programma il prossimo 2 ottobre. Tutta colpa della colla difettosa sulle buste del voto per corrispondenza che rischiava di scatenare una valanga di ricorsi. Ad annunciarlo il ministro dell'interno Sobotka. Già la consultazione del 22 maggio scorso, che vide il verde Alexander van der Bellen imporsi sull'ultranazionalista Norbert Höfer per una manciata di voti, era stata annullata per irregolarità nello scrutinio per posta. Il rinvio, ha spiegato ancora il ministro Sobotka, deve essere sancito dal Parlamento perché l'attuale legge elettorale non prevede un rinvio per motivi tecnici ma solo per il decesso di uno dei candidati. Inoltre l'intervento del Parlamento è necessario anche per aggiornare l'elenco degli aventi diritto al voto. Sobotka, che si è scusato con gli austriaci per i disguidi tecnici, ha auspicato che il ballottaggio possa svolgersi il prossimo 27 novembre oppure il 2 dicembre. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo allo sport, iniziando da quello paralimpico. Abdellatif Bacà conquista un oro che riaprirà il dibattito tra le prestazioni dei normodotati e quelle degli atleti con disabilità. Il corridore algerino ha vinto 1500 metri classe T13, dove gareggiano gli atleti ipovedenti, in una finale storica in cui i primi quattro al traguardo hanno fatto un tempo migliore di quello del vincitore sulla stessa distanza all'Olimpiade, quella per normodotati. Sulla pista dello Stadio Olimpico Bacà ha corso un secondo e mezzo più veloce dell'americano Matthew Centrowitz, l'oro di Rio 2016. A proposito di Paralimpiadi, noi proseguiamo con i nostri ritratti degli atleti italiani paralimpici. Sentiamo da chi ci porta oggi Dario Ricci. Il suo soprannome è Cannoncino, perché il braccio destro di Assunta Legnante quasi esplode quando c'è da lanciare un peso o un disco. Fino al 2012 la traiettoria gliela indicavano gli occhi. Oggi, che la vista è spenta da una malattia degenerativa, ci pensa l'istinto. Non sono stata da subito non vedente, ci sono diventata col tempo purtroppo e la mia vita appunto è sempre stata sui campi d'atletica e con un peso in mano. Sono stato un atleta della Nazionale Italiana di Atletica Leggera fino al 2009, poi ho cominciato ad avere i primi problemi di cui ero già a conoscenza ma che non si erano mai manifestati a quel livello. E con quello ho dovuto smettere l'attività agonistica dei normodotati. Da lì è sorto il problema maggiore, che è quello della perdita della vista completa. Pochi mesi dopo aver perso completamente la vista, Assunta Legnante ha vinto l'oro nel lancio del peso alle Paralimpiadi 2012. È ancora suo il record italiano tra le normodotate, che ha stabilito nel 2002 con 19 metri e 20 centimetri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutti i ritratti continuerete a trovarli anche in effetto giorno fino a venerdì, perché poi ci sarà la chiusura delle Paralimpiadi, li trovate anche sul sito www.radio24.it, ritratti che vi consigliamo perché sono storie affascinanti, le storie dei nostri atleti paralimpici. Veniamo al calcio, alla Serie A, l'Inter regala la prima vittoria a De Boer, decide Icardi con una doppietta, rimonta un ottimo Pescara, nel pomeriggio la seconda sconfitta su tre partite per il Milan, che cade in casa per 1-0 contro l'Udinese. Udinese, Bologna e Atalanta battono entrambe 2-1 rispettivamente Cagliari e Torino, pareggio 1-1 per Chievo e Lazio, rinviata per pioggia Genoa-Fiorentina, stasera chiude la terza giornata il posticipo Empoli-Crotone, ma la Serie A celebra Francesco Totti, a 39 anni il capitano della Roma entra in campo dopo la sospensione per il diluvio che si era abbattuto sull'Olimpico, trascina un assist per Zeko e segna un rigore su rigore, il 3-2 decisivo sulla Sampdoria. Magico, eterno, infinito. Perfino mago della pioggia, visto che con il suo ingresso, dopo il diluvio, la Roma ha capovolto la partita con la Samp. Francesco Totti, 40 anni il 27 settembre, entra nel mito per non uscirne più. Gli manca solo il Campidoglio, ma non ci stupiremo. Assist a pioggia, un gol su rigore, la corsa verso gli spalti per un altro bagno, quello con la folla. Con Totti c'è sempre un prima e un dopo. Il prima è una cosa normale, prevedibile come una fiction. Il dopo coincide con un'onda che torna e ritorna sugli spalti. Difficile era chiudere Totti in una normale figurina di calciatore. A parte i numeri, 25 stagioni in giallorosso e 249 reti, Totti non si discute. Nell'epoca del calcio fisico, che più fisico non si può, a 40 anni fa ancora l'artista. Una pennellata di qua, una di là, e il quadro prende forma. Perfino Spalletti, che aveva la mission di levargli la corona, ora gliela rimette con un volteggio da perfetto cortigiano. Francesco è infinito, altri giocatori con quel carisma non si trovano. E bravo Spalletti, giustamente Totti ora si fa un auto-assist. Ma perché dovrei smettere ora? Già, perché? Per restare nella storia, ma a lui non interessa. Nella storia, quella che piace agli eterni bambini del calcio, non lo toglie più nessuno. Dario Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi inizieremo il nostro giro per l'Italia, inizieremo da Milano per parlare di scuola come vi abbiamo detto e poi andremo in Sardegna. Ricordate la vicenda della banca dati del DNA sarda? Ve l'avevamo raccontata qua d'effetto giorno, quella che contiene il DNA dei centenari, per scoprire il segreto di come fanno queste persone ad arrivare così avanti negli anni. Ebbene, pare che qualcuno abbia rubato 14.000 provette, cercheremo di capirne di più. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei dati Istat sull'occupazione, del comune di Amatrice che fa causa a Charlie Hebdo, della legge elettorale della giunta 5 Stelle di Roma, di Hillary Clinton e del ballottaggio in Austria che è stato di nuovo rimandato, e abbiamo parlato di scuola. Ed è sulla scuola che torniamo con il nostro giro per l'Italia, che inizia dunque da Milano. Siamo in linea con Marco Bussetti, che è il direttore dell'ufficio scolastico provinciale, quello che un tempo si chiamava Provveditore. Bussetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuto a lei, grazie dell'invito e a tutti, buongiorno anche a tutti i suoi ascoltatori. Allora, per parlare, partire da una storia in realtà di qualche giorno fa e per allargare un po' il discorso, il tema è quello degli insegnanti di sostegno per gli studenti disabili. Di storie dal territorio ne emergono quotidianamente. Questa che è uscita l'altro giorno sul Corriere della Sera raccontava di un bambino chiamato nell'articolo Andrea, un nome di fantasia naturalmente, che è stato rifiutato dalla scuola per carenza proprio di insegnanti di sostegno, perché c'erano già dei bambini disabili all'interno della scuola, costretto a spostarsi in una scuola molto più lontana. Innanzitutto le chiederei sul singolo caso se ne è a conoscenza e se c'è un modo di risolverlo. Il secondo elemento che le chiederei, Bussetti, di aiutarci a capire quanto è forte il problema in questo momento, quantomeno nella provincia che le compete. Sì, no, la questione la conosco, la sto seguendo, anche se la proposta era quella di spostarsi in una scuola a 200 metri da quella che la famiglia voleva per il proprio figlio, però cerchiamo di venire incontro adesso alla scuola stessa, alla famiglia, vediamo di risolvere il problema, però in attesa dobbiamo prima affrontarne altri in questo momento preciso. E il problema per quanto riguarda il sostegno provincia di Milano, ma che è un po' esteso in tutto il territorio, è quello della carenza di docenti specializzati. Noi ne abbiamo circa 13.000 studenti disabili, però non abbiamo docenti specializzati, ma comunque le cattedre vengono lo stesso coperte da altri docenti. Pur bravi, pur bravi, questo sì, va detto. Certamente, ma non specializzati, insomma, non specializzati. Non specializzati, non con il possesso del titolo, ma che comunque si applicano in maniera professionale al massimo, ma soprattutto noi guardiamo molto a quelle che sono i problemi legati alle persone, al tipo di disabilità e l'attenzione è alta, e manteniamo anche costanti quelli che sono i parametri che riusciamo sempre così a migliorare anno dopo anno. Quest'anno il rapporto è di circa 1-2, quindi ogni due bambini un docente. Un docente. Senta, a livello più generale, Bussetti, abbiamo sentito poco fa un'intervista che hanno realizzato stamattina Oscar Giannino e Alessandro Milan al sottosegretario Faraone, il quale dice: c'è stato qualche problema, è fisiologico, in realtà sta andando tutto benissimo. Vorrei capire questo: c'è una carenza di insegnanti proprio complessiva, al di là di quelli di sostegno, almeno per quanto vi riguarda? Non possiamo ancora dirlo. Noi abbiamo finora proceduto con tutte le missioni a ruolo, abbiamo concluso le operazioni sabato sera alle 10, e questo vale veramente approfittarne per fare un ringraziamento al personale di questo ufficio che si è impegnato anche di sabato fino a quell'ora, partendo dalla mattina alle 8. E i numeri precisi li sapremo tra qualche giorno, quando, come si dice in gergo, le bocce saranno ferme. E quindi non ne avete idea, avete segnalazioni però di difficoltà, immagino, da singole scuole o no? Ma quelle che sono fisiologicamente in organico succede spesso, ma questo i dirigenti scolastici ricorrono alle graduatorie di istituto per poter supplire. Senta, detta brutale, c'è qualcuno dei cosiddetti, aperte virgolette, enormi deportati, ossia i professori che sono stati spostati in altro luogo rispetto a quello nel quale avevano fatto richiesta, che ha marcato visita, per così dire? Questo non lo sappiamo. Noi abbiamo comunque concluso tutte le fasi di conciliazione autorizzate già venerdì, quindi prima ancora che iniziasse la scuola. Quindi anche sotto questo profilo, e anche rispetto ai numeri che avevamo, come puoi immaginare, Milano è una realtà molto grossa e molto complessa, siamo riusciti a portare in porto anche questa operazione. Va bene, vedremo come andrà nei prossimi giorni, dunque, e vedremo se avrete dei numeri un po' più precisi da darci. Intanto io la ringrazio, Marco Bussetti, le auguro un buon lavoro. Immagino che siano ore complicate nel momento nel quale si implementa una nuova riforma. Non sono ore, sono giornate. Sono giornate, certamente, nel quel momento nel quale si implementa una nuova riforma e qualcosa di nuovo, che piaccia o no, dico, è comunque complicato per chi poi ci deve mettere mano e far, per così dire, rispettare la legge, per dirla molto semplicemente. La ringrazio, grazie Bussetti, le auguro una buona giornata. Direttore ufficio scolastico provinciale di Milano, quello che un tempo era il provveditore. Vi avevamo parlato, e il nostro giro per l'Italia si sposta in Sardegna, per Das de Fogu, in Ogliastra. Abbiamo raccontato la storia del DNA dei centenari di quest'area della Sardegna, che è sotto studio proprio per cercare il segreto della longevità, per così dire. Una banca dati che appunto era stata acquistata da una società di diritto inglese, ma in realtà di proprietà di un italiano. Ebbene, apprendiamo oggi dal quotidiano La Stampa che sono state rubate delle provette con il DNA dei centenari. Abbiamo in linea il professor Mario Pirasto, il ricercatore del CNR che ha seguito il grande studio sull'Ogliastra fin dall'inizio e che era già stato nostro ospite. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, sono state rubate queste 14.000 provette oppure no? Io penso proprio di no, tant'è che infatti la cosa che è incominciato a essere anche molto ridimensionata in termini numerici. Consideri che è una cosa assai complicata rubare DNA, a parte che secondo me senza altre informazioni non avrebbe nessun senso, però diciamo che io, come lei, ho letto La Stampa, e quindi quello che so è esattamente quello che sa anche lei dalla lettura. Bisognerebbe attendere che, evidentemente, se c'è un'indagine in corso, che finisca l'indagine per capire esattamente cosa è successo, perché questo non è molto chiaro. Tant'è che, ripeto, inizialmente erano 14.000 i campioni di 14.000 persone, adesso sono diventate poche migliaia, forse poche centinaia. Poche centinaia addirittura, quindi decisamente ridimensionato. I campioni quanti sono in tutto? 230.000 o mi sbaglio? Questo numero, che è un numero che ormai si si perpetua forse nei prossimi secoli, evidentemente. È un numero molto poco preciso, perché è un conto, come dire, fatto su il numero di campioni che hanno partecipato, il numero di soggetti che hanno partecipato e quante aliquote di questi campioni sono state fatte per ciascun campione, perché è chiaro che se ne fa tante di aliquote, ma anche dello stesso, cioè, per esempio, se io ho del siero, non è che metto tutto quanto solo in una provetta, perché il giorno che ci perdo quella provetta ho perso tutto. No, si fanno tante aliquote. Sì. Tutti ad occhio saranno intorno ai 200.000, però potrei essere sconfessato che possono essere 220, cioè, ma non è quello il problema più importante è che il numero di campioni studiati è intorno a 14.000, che è un numero molto ampio grazie alla CNR, alla società che poi è stata fatta precedentemente, la Sciarna, e spero anche adesso venga incrementato con una nuova società. Certamente. E questo studio appunto serve, Piraso, lo ricordiamo, per cercare di carpire in parte il segreto della longevità di questa gente, perché c'è un tasso di centenari molto elevato, no? Guardi, questo studio è partito per studiare in effetti le cause delle malattie più comuni nell'uomo. Quando ci siamo imbattuti in persone che malattie ne avevano poche o comunque erano abbastanza longeve, è chiaro che l'attenzione si sposta velocemente anche ai sani, perché questi sono soggetti, i longevi in fine conto sono persone sane che arrivano a una certa età, forse anche a 100 anni, in buonissime condizioni. Quindi è molto interessante non solo studiare come mai uno si ammala, ma studiare anche come mai uno vive più a lungo. Perché naturalmente, probabilmente dalla comparazione di questi due gruppi di persone, forse si riesce a capire di più sia l'uno che l'altro meccanismo. La ringrazio, grazie al professor Mario Pirastu, che ha in qualche modo smentito appunto questa notizia che era circolata nelle ore scorse. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa come sempre e poi vedremo se riusciremo a raggiungerlo, a parlare col sindaco di Melito di Porto Salvo in Calabria, dove da quale viene una brutta storia, una ragazzina che è stata violentata per 3 anni da 9 persone, tra cui a quanto pare anche il figlio di un boss. E raccontano i giornali un paese che si volta dall'altra parte. Pausa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il comune di Amatrice fa causa a Charlie Hebdo per la vignetta sul terremoto. Cresce l'occupazione nel secondo trimestre dell'anno, più 189.000 posti. Aperture di Renzi a modifiche della legge elettorale, ma la sinistra PD non si fida. Il malore di Hillary Clinton è polmonite, dice lo staff, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Allora, vi avevo annunciato che la prossima tappa del Giro per l'Italia sarebbe stata a Melito Porto Salvo, in Calabria, per parlare della vicenda di questa ragazzina appunto che per 3 anni è stata violentata. I giornali raccontano di un paese che si è voltato dall'altra parte. Avremmo voluto parlare con il sindaco Giuseppe Meduri, il quale era ampiamente a disposizione, solamente che il nostro tempo esaurito, perché la puntata del lunedì, come sapete, è un po' più breve di Effetto Giorno. Adesso c'è Mario Platero con America 24, poi ci sarà il traffico, la rubrica, o meglio, pardon, ci sentiremo per i saluti finali e poi la rubrica sugli autotrasporti. Platero.